I due ambulatori erano due ambulatori in cui, diciamo, le pazienti oncologiche a cui potevano rivolgersi per ricevere, diciamo, informazioni di medicina integrata cosiddetta, quindi sulla una sana alimentazione, su un corretto stile di vita, e soprattutto potevano accedere a un servizio di agopuntura che è fondamentale per tutte coloro che devono affrontare la chemioterapia, la menopausa indotta dai farmaci che vengono dati a tutte le donne che hanno un problema di tipo ormonale. Questi due ambulatori facevano parte di un progetto della regione Medio-Rare che si è chiuso. Uno dei due ambulatori ha chiuso già a dicembre dell'anno scorso, l'altro invece a ottobre, quando diciamo la capofila del progetto è andata in pensione. Noi siamo un gruppo di pazienti che si sono riunite, diciamo, spontaneamente, proprio perché avevamo usufruito di questo servizio e ci aveva dato grandi benefici nella gestione proprio della menopausa indotta. E prima abbiamo tentato con varie lettere alla direzione sanitaria, all'assessore regionale Donini, per capire quale sarebbe stato il futuro di questi ambulatori. Poi niente, gli ambulatori sono stati chiusi e quindi non abbiamo trovato altre, come dire, altre strade che quella di una petizione online per far capire quanto siano importanti per la qualità della vita delle donne che hanno avuto un tumore e che devono fare la terapia ormonale nella gestione della loro qualità della vita, insomma. Questi ambulatori non sono stati chiusi per Covid, problemi no. Legati alla pandemia? No, sarebbero stati chiusi comunque. Sarebbero stati chiusi comunque. Certamente il fatto che accada adesso, in un momento così complesso anche per la sanità, fa sì che c'è un costo in più per le donne che vogliono usufruire di questo servizio, perché si va privatamente ovviamente. Quindi questi servizi erano gratuiti, il fatto di non averli più vuol dire andare di tasca propria. E la pandemia non ha avuto un impatto leggero, come sappiamo, sulla vita lavorativa delle donne, e questo non aiuta. L'ASL e la regione non vi hanno dato spiegazioni, non vi hanno risposto? L'ultima risposta che abbiamo ricevuto è stata in primi di gennaio, perché avevamo inoltrato questa nostra richiesta alla vice sindaca Clancy. Ci è arrivata una risposta per tramite appunto della Clancy di Roti, che è il direttore sanitario. Ci stiamo lavorando, ci sembra un po' vago, nel senso che ormai, cioè, un pensionamento è una cosa prevista e prevedibile, quindi direi che stiamo aspettando da un po' troppo tempo. Voi chiedete di avere delle certezze, insomma. Vogliamo sì certezza sui tempi della riapertura e sulle modalità della riapertura, perché crediamo comunque che siano servizi ampiamente sottostimati rispetto al bisogno che ce ne sarebbe. Cioè, molte donne non sanno quanto beneficio l'agopuntura potrebbe avere per loro, e quindi in realtà se li riaprissero o ne riaprissero di più, perché poi questo progetto era regionale, quindi c'erano diversi ambulatori sparsi nelle varie ASL delle altre città dell'Emilia Romagna, il cui destino io non conosco, ecco. Se ne riaprissero di più di uno, due o tre, sicuramente non resterebbero vuoti, ecco. Certo, come fare per firmare la petizione? Si va su Change e si cerca "riaprite gli ambulatori di agopuntura".